Disco Della Senza Manna. It's so hard for you, beast, to understand the power of things, and we must make a list of the stories that for you can exist. And be fast, please, 'cause I'm really tired. So be quiet. The rage against things cannot change the world. So be quiet. The rage against things cannot change the world. No. They're lying to you. Your time has arrived. Bene, rientriamo dopo questo pezzo che si chiamava Quiet e siamo in compagnia di Mauro e Eric. Abbiamo cambiato un po' personaggi all'interno di questa puntata di Fujiko Factory, ma come al solito, come ogni lunedì alle 16:30, arriva il disco della settimana. Noi abbiamo passato diversi giorni ad ascoltare alcuni dischi e quello che ci ha colpito e abbiamo presentato oggi e che abbiamo intenzione di presentarvi oggi è un disco che non è proprio omogeneo per quanto riguarda le tracce. No, diciamo che è un po' un melting pot di generi, no? un miscuglio che va dall'alternative rock al progressive con delle venature ska, insomma ci sono dentro tantissime influenze. Adesso mi incazzo, Mauro. Cos'è successo? Mi hai spoilerato il titolo del disco. Vabbè, ma se tu non lo dicevi nessuno avrebbe capito che io ho già detto il titolo dell'album. Il disco appunto che vi stiamo presentando oggi e dal quale abbiamo ascoltato il primo pezzo che abbiamo estratto, Quiet, si chiama appunto Melting Pot ed è uscito pochissimi giorni fa, il 20 marzo. Il nome della band adesso è un po' un problema perché abbiamo passato una buona mezz'oretta cercando di capire la pronuncia del nome. È scritto Brandes, però secondo me non si pronuncia proprio Brandes. Allora, loro sono i Brandes? Secondo me invece è Brandis. Oppure i Brandes? Non lo sappiamo. Allora ragazzi, abbiate pazienza, noi appunto abbiamo ascoltato il disco, ci è piaciuto e abbiamo deciso di fregarcene di questo piccolo problema del non sapere come si pronuncia il vostro nome. Però ricordiamo a tutti che il vostro album è uscito appunto pochi giorni fa e si chiama Melting Pot. Allora, il primo pezzo che abbiamo ascoltato si chiama appunto Quiet, l'abbiamo ascoltato pochi minuti fa, ed è un pezzo che descrive un conflitto interiore del protagonista che non vuole rassegnarsi all'irragionevolezza del mondo che lo circonda. Nel ritornello esprime il proprio dissenso attraverso lo stile sponsoriale e chiamando in campo una seconda voce. Un brano dall'atmosfera malinconica, come avete sentito, a tratti Britpop, che alterna momenti di quiete ad altri di esplosione di synth e chitarra elettrica. Ecco, già qui diciamo che possiamo trovare la cosa che ci è piaciuta di più di Melting Pot, cioè il fatto che i brani tra loro hanno delle grandissime differenze di genere. Ma sì, anche nella descrizione viene raccontato un po' come una significativa varietà stilistica nella quale si incontrano melodia e architetture strumentali complesse, linee vocali immediate, arrangiamenti sinfonici e orchestrali, il sapore rock, che c'è molto, ma anche sfumature progressive, hard rock e persino momenti in stile Britpop, tendenti allo ska, aggiungiamo noi. Un melting pot, appunto, una mescolanza, un contenitore in cui ogni componente della band diventa un ingrediente. Bellino, tipo ricetta, visto che con sta quarantena ci stiamo cimentando tutti in cose nuove, anche nella cucina, qua c'è un mix di diversi generi. Allora, prima di ascoltare il prossimo brano che abbiamo deciso di estrarre, vi ricordiamo che Melting Pot è uscito da pochi giorni, ma è anche il primo lavoro di questa band, quindi è quella con cui hanno deciso di presentarsi a tutti i nuovi fan, e noi devo dire che siamo nuovi fan, appunto. Da questo EP che contiene 7 tracce procediamo a presentarvene un'altra. Io presenterei Waves of Dunes, che racconta la presa di coscienza legata all'entrata nel mondo degli adulti, e l'io narrante cerca ristoro in una fittizia dimensione desertica. Quest'oasi di quiete è permeata da sonorità arapeggianti. I miss you, but everything seems okay, and I need it and nothing more. Ready at all? abbiamo ascoltato anche questo pezzo, però appunto dicevamo è un album di esordio perché questi ragazzi sono giovani, hanno fondato la loro band, ma hanno deciso appunto di creare questo primo EP. Un po' di biografia di questa band: i Brandies sono questi sono praticamente 5 ragazzi che scrivono musica poco ordinaria, poco da ragazzi appunto, e poco milanese, si può dire in questo modo, forse poco simile a quello che è il panorama musicale di Milano dei giorni nostri. Si formano nel 2018 a Milano, accomunati da una grande passione per l'alternative rock, ma il percorso tracciato successivamente comincia a esplorare strade molteplici, abbracciando le diverse influenze musicali di ogni membro. I Brandies sono Stefano Pailardi alla chitarra, fondatore e anima organizzativa della band, Luca Brandes, che è anche il cognome di questo ragazzo, quindi scopriremo come si dice, alle tastiere, Alessandro Brunetti al basso, Ivan Dell'Anna alla batteria, Ivan Cutolo, detto Cut, alla voce. Questi ragazzi appunto si ritrovano 2 anni fa a Milano e decidono di appunto suonare musica un po' controcorrente rispetto a quella che ascoltiamo generalmente in questa città. Questo album appunto è stato lavorato dal 2018, quindi, ed esce il 20 marzo 2020. L'album, ricordiamo, si chiama Melting Pot e abbiamo ascoltato già 2 tracce. Io sottolineerei anche il fatto che i ragazzi hanno 20 anni circa. Ci sta che siano anche al loro primo lavoro discografico, insomma, con quest'età. Come si dice a Milano i ragazzi? Boccia, una boccia più bergamasco. E chissà. Cinnaz è più bolognese. Abbiamo un sacco di dubbi in questo disco della settimana, ma andiamo oltre. Cari amici tanto... Brandes, rispondeteci anche su come si dice ragazzi a Milano. Prima di ascoltare quindi la prossima traccia che io avrei scelto tra le 7 dell'EP, My Recall, vi diciamo una cosa. Abbiamo appena ricevuto un messaggio dalla band e grazie ragazzi ci avete chiarito come vi chiamate. Quindi sappiamo che stiamo presentando Melting Pot, che è l'album dei Brandes. A questo punto appunto introduciamo il prossimo pezzo che si chiama My Recall, che è un brano frenetico, un continuo tira e molla tra suoni rock e momenti invece di distensione melodica. Io quando l'ho ascoltato infatti sono rimasta un attimo stordita da questo cambio continuo e repentino musicale. È tratta dalla perseverante irrequietudine che è nell'animo di ogni artista e dall'irrefrenabile desiderio di lasciare un segno sulla tela, in questo caso un segno sul disco in qualche modo, ecco. Bene, ascoltiamo My Recall e torniamo con voi per raccontarvi che cosa dice la band di Melting Pot. I'm Beh, allora siamo quasi alla fine di questo ascolto, di questa presentazione, Mauro, e direi che è molto interessante capire anche cosa dice un artista del suo lavoro, insomma, come racconta un artista il suo lavoro. In questo caso i Brandes, appunto, presentano Melting Pot e lo descrivono così. Allora, Stefano, che è un po' il fondatore, nonché chitarrista della band, dice: la prima volta che conobbi Luca, il tastierista, mi presentò una suite da 13 minuti. Lo guardai e gli dissi che la trovavo interessante, ma che c'erano 10 minuti di troppo. Così abbiamo iniziato a lavorarci su, e da allora continuiamo a farlo con la voglia di trovare un compromesso sapiente tra i nostri mondi. Dal punto di vista creativo, le dinamiche dei Brandes sono complesse. C'è chi ama la musica classica e chi il punk, chi è affascinato dalla nuova ondata della trap e chi invece la detesta. Ognuno di noi è attratto da qualcosa di diverso, e se ci chiedessero che genere facciamo, non sapremmo dare una risposta precisa. I nostri brani sono difficilmente categorizzabili e ci piace farci trasportare dalla loro stranezza ed imprevedibilità. In effetti, quando noi abbiamo ascoltato i pezzi, appunto, di Melting Pot, che ricordiamo è questo EP di esordio dei Brandes, che è uscito il 20 marzo, quindi pochissimi giorni fa, l'abbiamo ascoltato ed era molto strano diciamo ascoltarli tutti di fila questi brani, perché tra loro hanno davvero una differenza a livello di genere molto grande, e si sente questa loro capacità di, diciamo, unire le diverse influenze musicali, ma lasciare ad ognuno il proprio spazio in un qualche modo. Beh, io ammetto che mentre Erika ascoltava un po' il disco, io spazzavo per casa, no? E passando davanti al salotto in cui lei stava ascoltando, ogni volta dicevo: ma è sempre lo stesso disco? E sentivo un po' delle influenze varie, dico: cavoli, questi sembrano un po' i Muse da giovani. Poi ascoltavo un altro pezzo e dico: ma non possono essere gli stessi, perché questi hanno qualcosa di White Stripes, secondo me, no? E così via. Per 3 o 4 brani ho detto: vabbè, ma quelli di prima mi piacevano, guarda che sono gli stessi. E così abbiamo scoperto che i Brandes fanno un Melting Pot che ci piace molto. Infatti, e poi quello che dicono loro è che tutto questo nasce dalla necessità e dal desiderio di essere ascoltati e compresi su più livelli, che non sono solo quelli musicali, appunto, ma anche a livello artistico e a livello umano. E insomma, questo lavoro è nato un po' dall'istinto di costruire qualcosa che abbia una forma strutturata, ma con idee spontanee. Ricordiamovi allora che Melting Pot, che è l'EP d'esordio autoprodotto dei Brandes, è uscito il 20 marzo 2020 ed è stato registrato presso le Rec Lab Studios di Buccinasco, nel milanese, nell'estate del 2019. Vi lasciamo quindi con l'ultimo brano, estratto dai 7, appunto, che compongono Melting Pot, e a questo punto ascoltiamo il brano numero 2. Divine Disorder, disordine divino. Il protagonista entra in un trip psichedelico per sconfiggere la noia soffocante. Abbastanza attuale. Questa viene sostituita dall'ansia e da un oceano di domande nelle quali è facile perdersi e impossibile trovare la risposta. Sempre più attuale. Il ritmo incalzante e il riff di chitarra in stile latino portano la canzone in una direzione più sperimentale. La linea vocale è orecchiabile, ma allo stesso tempo ha un sapore rock, grazie al timbro graffiato. Ma ora hai detto la R! Non è vero, del cantante Kut. Ok, scusate per questa digressione. A questo punto vi lasciamo allora con l'ultimo pezzo estratto da quest'album. Speriamo assolutamente che vi sia piaciuta la nostra proposta per questa settimana, e quindi chiudiamo il disco della settimana. Ricordate che trovate anche il podcast di quello che stiamo raccontando sul sito di radiocittafugico.it e su festivalsbackpack.it. Momento pubblicitario. Buona settimana. say.